Buongiorno a tutti da Antonio Pavolini e benvenuti al 10° numero di Conversational, la rubrica di Radio Popolare Roma dedicata alla rivoluzione dei social media. Dopo la radio, la televisione e i libri, anche i giornali sembrano faticare a trovare un nuovo assetto a causa della crescente pervasività del web e dei social media nella vita quotidiana. Non si tratta ancora una volta di una mera questione tecnologica. D'accordo, l'apparizione dell'iPad è forse lo spauracchio più immediatamente visibile per le catene di distribuzione tradizionali, ma sullo sfondo fenomeni ben più profondi erodono la stessa ragion d'essere dei giornali come media, vale a dire come mediatori. E qualcuno comincia a chiedersi: nell'era di Twitter c'è ancora bisogno di una certificazione centralizzata dell'informazione come quella che la carta stampata ha preteso da sempre di garantire? Qualcuno comincia a dubitarne. Però bisogna sottolineare che con questo tipo di informazione, questo tipo di flusso di informazione, la verifica non avviene più come avveniva una volta tramite un unico elemento centrale, avviene attraverso una rete sociale vera e propria. I mezzi di comunicazione tradizionali si accorgono di questo flusso di informazioni, tentano di integrarlo, ma lo fanno con i loro vecchi schemi, andando incontro a delle bufale. Questo ne è un esempio abbastanza clamoroso. La crisi dell'editoria mondiale porta a un cambiamento non soltanto dalla carta al digitale, ma anche in questi schemi di comunicazione. In particolare rimette al centro forse il giornalismo. La situazione italiana purtroppo è un pochino diversa. Diciamo, in Italia il giornalismo è protetto, è sovvenzionato dallo Stato, gli editori, soprattutto i grandi editori, sono molto più influenti e potenti dei singoli giornalisti. E quindi gli editori hanno deciso di prenderselo con Google News. In realtà Google News è un aggregatore di notizie che tra l'altro porta persone proprio sui loro stessi siti, quindi non è una mossa molto intelligente. Nonostante questo, nonostante questi dinosauri da un lato, dall'altro lato della coda più lunga abbiamo delle nicchie tecnologiche molto, molto interessanti anche in Italia, che nel futuro probabilmente ci daranno delle soddisfazioni. Io nel mio piccolo sto cercando di mettere su un piccolo esperimento di informazione, chiamiamola così, dal basso, che riguarda proprio questo tipo di flusso di informazioni. L'ho chiamato 140 Newsnet. E diciamo che lo schema che utilizzo è leggermente diverso rispetto a quello classico. Prendo i fatti, li seleziono, trovo le notizie in base a questi fatti e dopo possono esistere approfondimenti e analisi. Questo tipo di modello, chiamato anche reverse syndication, è un modello che prevede di solito una redazione umana al centro, una redazione che seleziona i fatti, ne crea notizie e ne fa gli approfondimenti. Siamo tornati forse al giornalismo di una volta. Questo modo di informare in qualche modo può rimodellare le informazioni dell'agenda tipica dei mainstream media e può anche creare un'agenda particolare, relativamente all'opinione pubblica, a quello che può pensare il mondo. Allora, la voce che abbiamo sentito è quella di Luca Alagna, frequentatore abituale di questo studio, ma che stavolta, visto che è in vacanza, abbiamo voluto ripescare da un evento di qualche mese fa, durante il quale Luca ci raccontò la crisi dell'editoria e dell'informazione col suo solito stile molto incisivo. Di questa crisi parliamo in studio con Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso, scrittore, uno dei blogger più importanti del paese, direi, col suo piovono Rane, che da mesi se la batte, corretto Alessandro, con Beppe Grillo per la prima posizione delle classifiche di Blog Bubble, che insomma pur sempre contano ancora qualcosa. Buongiorno, Alessandro. E alla mia sinistra invece siede il professor Stefano Epifani, che torna a raggiungerci in studio dopo qualche puntata e che, come ho ripetuto molte volte, oltre ad essere un altro seguitissimo blogger, insegna presso il corso di laurea specialistica in comunicazione d'impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma. L'ho detto bene, Stefano? Salve a tutti, benissimo. Ok, allora abbiamo sentito da Luca la carta stampata è assediata da vari fenomeni che tendono a disintermediarla. Alessandro, ora se tu dovessi misurare la temperatura della stampa italiana rispetto a questo assedio, oggi la febbre come sarebbe? Se parliamo economicamente, cioè in termini di bilanci economici, la febbre è abbastanza alta perché i giornali sono tutti, o quasi tutti, in rosso, se non in rosso, in crisi economica, ma non solo per eventi strutturali come quelli di cui stiamo parlando stasera, anche perché c'è una recessione in corso e quindi meno pubblicità e meno... No, diciamo che la recessione ha enfatizzato una tendenza strutturale già in corso. Se parliamo dal punto di vista qualitativo, mi pare che in Italia ci sia molta strada da fare, ma si stanno facendo dei passi in avanti. Non è lo stesso giornalismo in cui sono nato professionalmente 25 anni fa. Non sono fra gli apocalittici io, non sono fra quelli che piangono perché l'editoria è in crisi, anzi a me le crisi di passaggio, no, siccome da ogni crisi nasce una cosa nuova, mi piace molto più della stagnazione. Credo, se posso già cominciare a buttare una pietra nello stagno di questo dibattito, che tutto il dibattito sul futuro dei giornali vada rovesciato, come si rovescia un cannocchiale, perché lo stiamo guardando dalla parte sbagliata, quasi tutti. E cioè lo stiamo guardando dalla parte del oddio, i giornali sono in crisi, oppure che bello, i giornali sono in crisi. Invece, secondo me, la cosa, la parte da cui guardare non è quella né dei giornali, né dei giornalisti, né degli editori, né delle piattaforme di condivisione, né di altro. La parte da cui guardare i problemi dell'editoria è la politica. Cioè, i giornali a cosa servono? I giornali, la comunicazione, anche che ovviamente viene fuori dai giornali, in generale l'informazione, a che cosa serve in una democrazia sana? Cioè, qual è il bisogno di comunicazione e di informazione in una democrazia che funziona, quindi dove c'è una distribuzione aperta e libera delle notizie, dove c'è una stampa, o meglio dire una comunicazione sul complesso che controlla il potere, dove ci sono inchieste, dove c'è fact checking, dove ci sono database, dove ci sono approfondimenti, cioè partiamo dai bisogni di una società libera, trasparente e moderna, non dalle nicchie di mercato o dagli interessi di categoria. Questo è secondo me il punto di partenza di qualsiasi dibattito sul futuro dei giornali. Se no stiamo qua a discutere tutta la vita fra blogger e giornalisti, poi essendo entrambe le cose dovrei discutere anche con me stesso e mi sento un po' scemo. Stefano, ma una democrazia in cui i mezzi di comunicazione sono non dei prodotti editoriali in competizione, ma sono fondamentalmente degli strumenti per grandi gruppi industriali, è una democrazia in qualche modo svuotata, come sembra farci capire Alessandro? Beh, diciamo che è una democrazia non del tutto sana, mettiamola così. Magari non è svuotata, ma ha una bella falla. E se tu infilassi il termometro, non diciamo dove, ma insomma dalle parti dove si cerca di capire in questo momento quali sono i giornali che si stanno innovando, tu che insomma l'università è anche un osservatorio un po' privilegiato su quello che sta accadendo, no? Alcuni sono più veloci a reagire, altri no. Tu noti qualche trend? Ma io... Giglioli parlava di apocalittici integrati, drammaticamente tu ci stavi chiedendo prima dice, mettiamo un po' di pepe in questa trasmissione, siete due polemisti, quindi create anche un'occasione di polemica. Il problema è che con Alessandro io vado molto d'accordo, quindi non riesco poi a trovare troppe occasioni di polemica. Sì, l'università è un osservatorio privilegiato? Sì, forse. Senz'altro un osservatorio spesso distante, ma troppo distante dalla realtà, voglio dire, delle cose che succedono. Ma se dovessimo cercare di misurare la temperatura dei giornali, anch'io direi che i giornali hanno diverse, del mondo dell'informazione, direi che hanno diverse temperature. Inutile soffermarsi sulle questioni relative ai conti, perché queste sono notoriamente drammatiche in questo momento per una serie di fattori che Alessandro prima metteva in evidenza. Però nell'attuale assetto non troppo rilevanti, perché insomma il business dell'editoria, per così com'è in Italia, può anche essere in perdita. Quello che conta è che tiri acqua ai rispettivi mulini. Ma il fatto è che per tirare acqua ai rispettivi mulini deve comunque produrre una qualche forma di revenue, che non sia economico, quello che sia, ma se la gente non legge i giornali alla fine non serve più questo meccanismo. Il tema è un altro, il tema è che il mondo dell'informazione sta cambiando e i giornali semplicemente si trovano all'interno di questo mondo, che è un mondo in divenire, in cui non è tanto importante il fatto che ci sia cellulosa o silicio. Il tema è come sta cambiando l'economia dell'informazione. E questo è il vero punto, a mio giudizio. Alessandro, spesso, almeno nel mio lavoro, si parla quando un'industria è assediata, no? Ci si stringe intorno a quelli che vengono definiti gli asset non duplicabili. Nell'editoria, diciamo, nella carta stampata, qual è l'asset non duplicabile che oggi i fenomeni a cui abbiamo fatto accenno, insomma, non possono ancora intaccare? Su cosa, se si devono stringere a coorte, mettiamola così, intorno a cosa devono stringersi gli editori? Ma direi intorno a tre elementi: la credibilità, l'autorevolezza e la creatività. Nel senso che, poi ovviamente la capacità, questo, come dire, è una precondizione, la capacità di capire il tempo e quindi di aggiornarsi al proprio tempo senza posizioni difensivistiche, perché sennò non si va da nessuna parte. La credibilità, perché, come sentivamo anche prima con Alagna, la cosa fondamentale oggi è instaurare un rapporto di fiducia. In termini tecnici, web reputation viene chiamato, ma è una reputation che va anche al di là del web, ovviamente. Un rapporto di fiducia con i cittadini che ti seguono e che hanno interesse a sapere che cosa stai comunicando. L'autorevolezza è parente della credibilità, ma non è la stessa cosa. L'autorevolezza si ottiene con il lungo periodo, cioè si ottiene un'autorevolezza, è molto buffo, no? Perché molti pensano che, ad esempio, in rete, che è un mezzo veloce, il mezzo veloce porti a un successo veloce. Questo è un errore che è stato fatto, il contrario: la rete è un mezzo veloce che crea autorevolezza in modo lento. E quindi i giornali che sono capaci di crearsi autorevolezza in rete poi avranno cascami positivi di questa loro autorevolezza su tutte le forme in cui venderanno i loro contenuti, oppure offriranno i loro contenuti gratuiti ma con la pubblicità, insomma le varie forme di cui poi parleremo. Creatività perché non c'è niente da fare, la cultura dei giornali italiani è prevalentemente una cultura passatista. Qui faccio volentieri una critica al mondo in cui vivo e che mi dà da mangiare. È una cultura passatista, è una cultura spaventata, perché, ma per tanti motivi, poi qua dovremmo fare una trasmissione ad hoc su questo, cioè c'è anche un fattore anagrafico, i giornalisti, ci sono dei privilegi dei giornalisti che sono stati acquisiti nel corso degli anni 70 e 80, soprattutto 80, a cui si fa fatica a rinunciare, cioè, ma molto banalmente, faccio un esempio molto semplice, molto stupido, però vale la pena. Una volta, se un giornalista scriveva una fregnaccia, tutti ne scriviamo perché non siamo perfetti, poi meno ne scriviamo meglio è, però quando un giornalista scriveva una fregnaccia riceveva al massimo due o tre lettere cartacee che finivano nel cestino perché il giornalista si indispettiva. Oggi un giornalista che scrive una fregnaccia giustamente viene sputtanato su internet, nei social network, o sul suo blog o sul sito stesso del suo giornale. E a molti giornalisti questa cosa non è andata bene, cioè la capacità di confrontarsi, la capacità di aprirsi, la capacità di ammettere in modo trasparente la propria fallibilità e usare i propri errori come strumento per migliorare, non è una roba che umanamente è facilissima da conquistare, specialmente se hai 50-60 anni e sono 30 anni che lavori in una nicchia di privilegi. Ma questo è solo un esempio tra i mille. Poi comunque c'è ovviamente il discorso più esteso sul fatto che, non essendo ancora stato trovato un modello di business che sorregge i giornali online, molti giornalisti hanno semplicemente paura della rete. Lo considerano un nemico e non una propria, e non una possibilità, non una chance. E questo è un terrificante equivoco che può portare solo danni, secondo me. Sì, a volte quando parla Alessandro viene il dubbio che sia un giornalista, cioè, ha detto tutto, possiamo anche chiudere la trasmissione e andarcene. No, in realtà una cosa vorrei aggiungerla: quando si parla di asset non duplicabili, a me ne viene in mente soltanto uno, che è quello davvero non duplicabile, che forse in questo contesto diventa particolarmente importante, che è l'attenzione degli utenti. l'unico asset realmente non duplicabile in questo mercato dell'informazione, ossia quell'elemento che è limitato e in competizione, quindi quella risorsa economica, per usare un termine tecnico, è l'attenzione degli utenti, utenti che sono sempre più attratti da fonti diverse, sempre più attratti da sistemi che producono informazioni in modo diverso rispetto ai giornali tradizionali, e di conseguenza la capacità di governare e di gestire l'attenzione degli utenti diventa davvero un asset strategico. Va bene, noi facciamo una delle nostre pause, mandiamo in onda uno dei nostri inserti e proseguiamo il dibattito dopo. Io non posso fare a meno dei libri, potrei fare a meno dei giornali, sicuramente. Oh mamma mia, alle 8 di mattina questa domanda... I giornali di carta spariranno prima. Secondo me il giornale scompare con il computer. Ma probabilmente sparirà tutto insieme in un unico colpo. Probabilmente i ragazzini leggeranno più ebook e noi continueremo però a leggere libri. Comunque l'affetto per la carta sarà sempre molto importante. Ma dipende se tu consideri il giornale e il libro contenitore o un contenuto. Questa è veramente un'ottima domanda. Ma per me i giornali potrebbero già non esistere oggi. Io compro i giornali solo quando ci sono interviste o articoli miei. Io non credo che spariranno, non penso che spariranno, perché sono due strumenti talmente radicati nella nostra vita che probabilmente conviveranno con altre tecnologie, con altri modi di diffondere idee, informazioni, cultura. I giornali sono già scomparsi. Nel libro c'è più feticismo, il giornale no, lo butti via alla fine della giornata. Avere la possibilità di sfogliare un libro di carta è sicuramente un privilegio che nessun ebook e nessun altro supporto può rimpiazzare. Io ho un Kindle e realizzo che effettivamente è molto più semplice utilizzare oggi un libro digitale. Il libro secondo me non sparirà mai. Va bene, allora, questa che abbiamo sentito è una clip realizzata in occasione di una passata edizione delle Venice Session in cui si parlava del futuro dell'informazione. Qualcuno raccolse, mi pare proprio Alessio Iacona, se non sbaglio, raccolse al Centro San Salvador di Venezia le opinioni di alcuni dei, diciamo così, degli addetti anche ai lavori che erano un po' lì presenti, o comunque degli osservatori acuti di questo fenomeno di transizione. Voglio rivolgere la domanda anche a voi: scompariranno prima i libri o i giornali, Alessandro? Dunque, sui libri non voglio parlare perché non ho una competenza di studi sufficiente, posso parlare pochissimo. Sui giornali posso dire che a me non me ne frega assolutamente niente se spariranno i giornali di carta. Cioè, i giornali sono un mezzo in una democrazia, in una società aperta, in una società plurale, sono un mezzo, non sono un fine. E sto parlando dei giornali di carta. Il mezzo deve essere sempre più potente ed è il mezzo della comunicazione, della libertà, della possibilità. Attenzione, qua vengo a un punto che è un elemento di discussione spesso anche con tanti colleghi. Alla possibilità di fare comunicazione professionale, che poi non avvenga su carta, avvenga attraverso altre piattaforme, è assolutamente secondario. Ma la comunicazione professionale, cioè il fatto che ci siano delle persone che siano pagate e abbiano quindi tutto il tempo e tutti i mezzi per fare dei lavori che la comunicazione non professionale non può fare, secondo me è un'assicurazione sulla vita della democrazia. Io faccio sempre l'esempio di un mio collega, no? Per non parlare di me stesso, ma di un mio collega che è anche un amico, che è Fabrizio Gatti, che fa delle straordinarie inchieste sul giornale per cui lavoro, l'Espresso, che lo impegnano per mesi. Cioè lui per fare una delle sue inchieste ci mette un mese e mezzo, e per un mese e mezzo è mantenuto, ovviamente con lo stipendio del nostro giornale, ma non solo, le sue inchieste hanno anche dei costi, perché spesso ha bisogno di andare in determinati posti. Questa è comunicazione professionale. Che poi Fabrizio scriva un pezzo per il cartaceo, faccia un video per il sito o per l'iPad, è assolutamente secondario. Quello che conta è che alla fine c'è un lavoro di inchiesta o di verifica che deve essere fatto professionalmente, perché ci vuole il tempo per documentarsi, per farlo bene questo mestiere, ci vuole molto tempo. Il lavoro di controllo del potere, di cane da guardia del potere, che è una delle funzioni principali, se non la principale, della comunicazione, del giornalismo in una società sana, è un lavoro che esige tempo e denaro. Quindi a me che i giornali di carta muoiano non me ne importa assolutamente niente, rimarranno forse alcune piccole testate per feticisti, alcuni mensili, che ne so, il New Yorker, no? Questo tipo di mensili qua, che, o di settimanali, insomma di periodici che possono essere in qualche modo diventare oggetti cartacei di culto da tenere in salotto, ma la comunicazione, la libertà di stampa trascende ormai molto la stampa. Visto che abbiamo spostato un po', ma io chiaramente sono d'accordo con te, lo diamo un po' per scontato, non ce ne frega nulla se scompare la carta, anzi, forse anche un valore ecologico. Però rispetto a quando si facevano queste domande un anno fa, no? Quando era uscito l'iPad, adesso c'è un po', lo chiedo a Stefano che è anche un esperto di user interaction, c'è un po' di storia. Adesso l'iPad ci ha insegnato, in un anno che è in circolazione, ci ha insegnato alcune cose sul ruolo che comunque giocherà, se non nello far scomparire, quantomeno nel far cambiare, no? Il modo in cui si sfoglia una pagina di carta o elettronica, qualcosa ci ha insegnato. Tu che cosa hai visto? Ma ho visto che molte persone che prima ritenevano che il giornale o il libro sarebbe stato sempre e comunque sulla carta si stanno pian piano rendendo conto che il giornale di carta e il libro di carta non sono il contenuto, ma sono dei vettori. I vettori cambiano e cambieranno anche rispetto a quello che stiamo vedendo oggi. L'iPad è una tavoletta rigida e poco flessibile, per flessibile non intendo ovviamente in termini fisici, che cambierà anch'essa nel tempo. Ma, ripeto, non è tanto importante, perché quello che è importante è quanto questi strumenti favoriscono il fluire dell'informazione, favoriscono il veicolare dell'informazione all'interno del sistema. Ora, questo penso che sia sempre più facile. Penso che questi strumenti stiano facilitando il fatto che le persone accedano all'informazione e, di fatto, quindi, il fatto che questa informazione venga veicolata su carta o su silicio è secondario rispetto alla reale importanza del fatto che le tecnologie stanno di fatto rendendo l'informazione, che è uno strumento di libertà, sempre più disponibile. Va bene, allora io direi di dare ancora la parola a Luca Alagna, che concluse questo suo frettoloso intervento, perché si trattava, me lo ricordo, di un Ignite, che sono queste presentazioni che devono durare 5 minuti, altrimenti ti buttano fuori dalla stanza. E Luca, che di solito si prende tutto il suo tempo, aveva una specie di tachicardia, però disse alcune cose interessanti, tra cui raccontò la sua esperienza durante le elezioni in Iran con Twitter. Big day of morning rally in Tehran has begun. Information today, a precious commodity there as the Iranian regime cracks down on the release of information, severely limiting our ability to report there. But according to the Associated Press, that demonstration has begun today. That's right. So information is still getting out. It is just harder to come by. And this, again, is because, as we've been talking about, the crackdown on protesters and also the media. People in Iran, though, have turned to Facebook, to Twitter, to texting to get the word out about what's going on. And CNN has been monitoring these social media sites to try to keep you informed. So here's what some people have been tweeting about. Il nuovo giornalismo è possibile con questi nuovi modi di comunicare? È possibile rimettere al centro il giornalista? L'Iran è un paese tecnologicamente evoluto. A metà del giugno 2009 ha incominciato a comunicare tramite i suoi gruppi di informisti che stava succedendo qualcosa nel suo paese. Il regime ha reagito chiudendo le comunicazioni ai media internazionali, quindi le comunicazioni sono avvenute tutte tramite Twitter. A questo punto, quando diciamo, la repressione si è fatta più violenta, i ragazzi iraniani hanno cominciato a raffinare i propri strumenti e forse è iniziata a nascere una nuova generazione di reporter. Allora, le prime avvisaglie di quello che potrebbe succedere con un sistema di controllo e di verifica decentrata delle notizie le abbiamo avute in una situazione estrema, come diceva Luca, come quella iraniana del 2009. Io volevo chiedere intanto a Stefano, possiamo considerarla in qualche modo una spia di quello che magari più gradualmente potrebbe accadere tutti i giorni, come regola e non come eccezione, anche da noi, anche in Italia e non soltanto in situazioni appunto di crisi? Sì e no, nel senso che è vero che i sistemi vengono testati nelle condizioni estreme, ma è pur vero che in fisica alle condizioni estreme avvengono fatti che nella normalità vedono comportamenti diversi. Ecco che viene fuori l'accademico. No, semplicemente rifletto sul fatto che quello che faceva presente Luca avviene in un contesto in cui la democrazia di fatto non c'è, in cui la libertà non c'è, in cui già esistono una serie di elementi che hanno corrotto il sistema. Ora, a mio giudizio, quello che dobbiamo cercare di capire è come funzioni il giornalismo in un contesto sano o sanabile. E penso che le dinamiche siano sufficientemente diverse da rendere poco paragonabile quello che succede in Iran con Twitter rispetto a quello che succede in un paese, diciamo così, occidentale o comunque civile o sedicente tale. E parlare di perdita di centralità del giornalista mi sembra ancora oggi, e penso per molto tempo, non soltanto prematuro, ma anche metodologicamente scorretto. Quello che sta succedendo è probabilmente che il giornalista cambia ruolo se qualcosa sta succedendo. Perché? Perché mentre fino a qualche anno fa il giornalista era legittimamente il gatekeeper dell'informazione, quindi in qualche modo il vate che portava l'informazione attraverso il giornale all'utente, oggi sui fatti spesso ci arrivano prima gli utenti. Ma a questo punto qual è il ruolo del giornalista? Non è che non c'è più ruolo nel giornalista, anzi diventa un ruolo ancora più complesso, perché di fatto il giornalista è quello che dà quella chiave di lettura dei fatti che l'utente non può dare semplicemente perché ha una visione parziale di questi fatti, e quindi diventa un ruolo ancora di maggiore responsabilità. Ecco, io diciamo 15 anni fa, quando lavoravo anch'io in un giornale, al Sole 24 Ore, alla redazione esteri, e vedevo i corrispondenti o anche gli inviati che si preparavano per queste situazioni di crisi, notavo però che nelle situazioni estreme succedeva anche una cosa non elegantissima, cioè che magari se ne andavano al mercato di via Paolo Sarpi, a quei tempi il Sole 24 Ore era lì vicino a via Rozzano, a comprare un bel giubbotto Wrangler con tante tasche dove attrezzarsi in qualsiasi situazione d'emergenza, e poi andavano nella situazione drammatica e si chiudevano all'ultimo piano dell'Hilton nella loro suite e ascoltavano BBC World Service. Beh, forse, e poi raccontavano da lì quello che succedeva, cioè l'inviato all'Antonio Russo, cioè quello che veramente rischia la pelle, eccetera, non mi sembra che sia stato nella storia del nostro giornalismo la grande regola, più l'eccezione. Ma numericamente non saprei, quello che però tu hai detto è una roba che ho visto anch'io con i miei occhi, nel senso che ormai appunto sono 25 anni che faccio questo lavoro. Non solo gli inviati di guerra, anche quando non esisteva internet, i corrispondenti solitamente si compravano la mazzetta di quotidiani di New York piuttosto che di Mosca, rimpacciugavano quello che trovavano scritto, mandavano il pezzo e poi si avevano la giornata libera. Cioè, sto facendo casi estremi, poi ci sono sempre stati ottimi corrispondenti, ottimi inviati, forse Mosche Bianche, lo dici bene tu. Quello che conta, al di là dell'aspetto numerico, è che c'è una pigrizia, c'è un'inerzia storica nella nostra professione. Non c'è una mazza da fare. Questo io c'ho a che fare tutti i giorni, quindi ahimè lo so. C'è una pigrizia storica che fa sì che... pigrizia proprio intellettuale, la difficoltà di cui parlavo prima di confrontarsi con i lettori, la difficoltà di avere di scendere dal piedistallo, e anche la conseguente perdita di alcuni privilegi di carattere economico, perché una volta i giornalisti erano pagati molto bene, oggi lo sono molto meno, ma solo 20 anni fa erano pagati bene ed erano delle celebrity a livello locale, spesso se non a livello nazionale. Oggi sono dei signori che hanno da fare un lavoro più difficile, che devono mettersi tutti i giorni in discussione e che vengono pagati meno di quello che pagano. È ovvio che un po' di gente girano le palle, però d'altro canto o è così o niente, perché l'unico senso che ha la nostra professione nei prossimi anni sarà quello di armarci di umiltà, di armarci di pazienza, di confrontarci tutti i giorni con il giornalismo diffuso, con quello che tu hai chiamato giornalismo decentralizzato, perché un giornalista oggi che non ha una capacità di confronto quotidiana con i non professionisti della comunicazione, che pure forniscono spunti, notizie in quantità industriale ogni minuto per lavori giornalistici, e un giornalista così è morto. Quindi questa crisi, io all'inizio della trasmissione dicevo un po' paradossalmente sono contento che ci sia la crisi, ma non è una roba così paradossale, perché un po' di scrematura di aristocrazia giornalistica pigra può solo fare bene al giornalismo e quindi, ripeto, alla società e alla politica a cui il giornalismo è utile, altrimenti non serve a niente. Va bene, allora non faccio a Stefano, perché sarebbe troppo cattivo con questa specie di assist a porta vuota che gli ha fatto Alessandro, non gli faccio la domanda se abbia ancora senso l'ordine dei giornalisti, piuttosto gli chiedo, Luca, abbiamo sentito, tu hai partito da questa esperienza delle elezioni in Iran, per poi però continuare questo esperimento, no? In altre situazioni ha creato questo account che si chiama 140 News qualcosa, l'abbiamo sentito prima, comunque metteremo il link sul blog di Conversational. Allora, in qualche modo lui è riuscito a misurare, questa è la cosa interessante, la credibilità delle fonti in queste situazioni, riscontrandole continuamente in tempo reale, cioè mettendole a confronto tra di loro. Ti chiedo, Stefano, è questo il futuro della verifica o il ruolo di una redazione centrale ancora insostituibile? Ancora una volta, io non sono apocalittico, di conseguenza penso che questo sia uno degli strumenti di verifica che è necessario prendere in considerazione, rispetto al fatto che alla fine qualcuno che vada lì a verificare cosa sta succedendo comunque serve e servirà sempre. Ma non è detto che sia, scusami, quello che convoca, ci vediamo, perché cosa faceva Luca durante questi rallies, queste manifestazioni contro il regime a Teheran? Lui diceva, guarda, ci sono 40 tweet che dicono che si stanno vedendo tutti nella piazza davanti all'università, no? E quindi vuol dire che questa è una notizia vera. Poi magari c'era il 41esimo che diceva che invece la manifestazione era altrove e poteva essere uno dei servizi segreti del regime, oppure poteva essere semplicemente qualcuno che aveva scritto una corbelleria, no? La domanda un po' che voglio rispondere alla domanda che hai fatto al professore. Sì. La coniugazione fra comunicazione diffusa e comunicazione professionale, perché è lì, secondo me, che ci giochiamo un po' le palle. Cioè, deve diventare uno strumento per i professionisti. Come società libera. No, deve diventare, secondo me, sta già diventando, è già diventato un dialogo continuo che consente agli uni di nutrirsi degli altri fino a creare una zona grigia fra le due realtà che non è più distinguibile, in cui l'obiettivo è comunque lo stesso, cioè fare comunicazione, fare informazione, fare approfondimenti, dare notizie, fare fact-checking, fare controllo del potere, che poi questo controllo del potere posso dire, poi chiudo, è molto vecchia e infantile la polemica fra blogger e giornalisti. E io spero che sia veramente superata alla luce del obiettivo comune di tutti coloro che fanno comunicazione, che è fare buona comunicazione, indipendentemente dal tesserino che si ha in tasca o dallo stipendio che si prende a fine mese. Nella consapevolezza, lo ripeto, che la comunicazione professionale è utile, ma è utile se non si chiude, se non si chiude la comunicazione non professionale, se non si chiude, se non pensa di ritornare sul piedistallo in cui stava negli anni 60, 70, 80. Va bene, noi mandiamo in onda un altro inserto e poi ci sentiamo per la chiusura. I giornali, la sensazione che ho è che vengano usati molto dal mondo stesso dell'informazione, che si rivolgano a se stessi e che parlino tra loro. Il giornalismo in quanto tale vivrà, i giornali sono un'altra cosa. A me interessa più che altro che non sparisca la cultura, l'informazione, la possibilità di comunicare. Il libro ha un legame con la parte, diciamo, tattile, diciamo un legame con la carta più importante rispetto a quella che hanno i giornali. Ci rendiamo conto che il giornale è estremamente inattuale. E poi se domani non ci sono più giornali edicoli, non ci sono 150 cose da leggere qua dentro. Io ormai passo tutti i miei minuti liberi a leggere giornali sull'iPhone, quindi è ulteriormente sfinente. Sicuramente scompariranno prima i giornali, perché se io ad esempio non compro il giornale ora, però compro il libro da leggere su carta. Io sono ancora di una generazione un po' affezionata alla carta. Cioè, senza giornali no, calma, fermi. Chi ha 40 anni oggi in Italia è un po' nato col web e quindi forse ce la caveremo ugualmente. Mi sentirei un po' perso, probabilmente mi collegherei immediatamente al mio cellulare e cercherei delle notizie. Sarebbe un bel problema per molta gente che non credo sia ancora pronta al momento a riversarsi sulla rete per avere le notizie. Penso che non scomparirà né l'uno né l'altro. I lettori sì, è possibile che scompaiano. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più di questa clip è stata proprio l'introduzione, dove abbiamo sentito la voce di una giovane ragazza che però è dentro a queste cose già da un po' di tempo, che si chiama Antonella Napolitano, e che ha detto: i giornali in realtà si stanno parlando tra di loro, e questo in larghissima misura già sta succedendo, perché le polemiche vengono rilanciate da un giornale all'altro, e ci sono alcuni giornali che a 9 colonne tutti i giorni semplicemente rispondono alla polemica che arriva dall'altra parte. Se questi sono i giornali che ci lasciamo dietro le spalle, oppure se questi sono i giornali che ci ritroveremo sulle nuove piattaforme, non credo che avremo fatto grandissimi passi avanti. Una parola per chiudere da tutti e due, Alessandro. La qualità è indipendente dalla piattaforma, quindi la qualità dei giornali la decidono alla fine gli utenti, i lettori. Ripeto, la si acquista nel tempo con la credibilità, con l'autorevolezza, non con il titolone 9 colonne. Almeno non fatto tutti i giorni, perché la quarta volta nessuno ci casca più. Il passaggio dei giornali dalla carta a una piattaforma elettronica probabilmente accentuerà questa esigenza, e secondo me è un fatto positivo di autorevolezza e di credibilità sul lungo termine. Stefano. Ma io invece chiuderei con un invito, che è quello a non confondere gli strumenti con le dinamiche. E mi riferisco al fatto che, se da una parte è evidente che stanno cambiando le dinamiche dell'informazione, è forse meno evidente il fatto che alcuni strumenti che fanno parte del mainstream di questo cambiamento, vedi l'iPad ad esempio, non fanno altro che basare il loro successo sul fatto che replicano dinamiche vecchie. Perché alla fine, per quale motivo l'iPad piace tanto? Ai giornali anche piace tanto. Semplicemente perché i giornali per la prima volta vedono uno strumento che consente loro di replicare, preso di peso, il modello dell'informazione tradizionale che si sfoglia pagina per pagina. Questa è malattia infantile, però, Questa adesso abbiamo trovato la polemica all'ultimo secondo. Perfetto, mi dite. Questa è malattia infantile, cioè i giornali non sono ancora pronti. Ogni volta che arriva una piattaforma nuova è chiaro che ci si cerca di buttarcisi con le logiche vecchie, poi poco a poco si capisce che la logica cambia. L'iPad è in Italia dal 28 maggio del 2009, cioè con i tempi di rapidità, con i tempi di reazione della stampa italiana, cara grazia che ci ha messo il PDF, perché c'è molto è tutto da lavorare quella roba lì. Ma tutto. La cosa importante è capire quello che succederà, cioè quello che portano questi strumenti. Noi ancora non l'abbiamo visto, perché abbiamo visto semplicemente la replica di quello che si faceva prima su quello che c'è adesso. Quello che succederà domani è importante da capire, quando gli strumenti metteranno a sistema anche i flussi, e quindi nuovi flussi potranno essere implementati attraverso nuovi strumenti con modalità altrettanto nuove, cosa che soprattutto in Italia ancora non abbiamo visto. E questa è questione di zucca, cioè di capacità di aggiornarsi, come si diceva dall'inizio. Va bene, abbiamo avuto un abbozzo molto blando di polemica solo nella fine. Siamo tutti quindi molto soddisfatti finalmente. Io, prima di chiudere, visto che il tempo è ampiamente finito, ricordo i blog dei due ospiti che abbiamo avuto in studio. Quello di Alessandro Giglioli, che si chiama Piovono Rame. Rane, ma l'indirizzo è giglioli.blogautore. No, ma c'è anche piovonorane.it, è più facile. Piovonorane.it, va bene. E quello di Stefano Epifani è blog.stefanoepifani.it. Io ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima.